tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti alla nuova puntata del notiziario anticlericale. Oggi festeggiamo la morte di Suor Germana, la cuoca di Dio, e questo mi dà l'occasione per ricordare il mio libro Ecclesia Magna con i grandi banchetti cardinalizi alla faccia dei poveri. E ricordiamo che nel mio libro ci sono anche le ricette degli strozzapreti, il mio alimento principale. E ricordiamo dalla rivista Medioevo, a proposito di banchetti, quanto fece Bonifacio VIII il giorno della sua intronazione in Vaticano, il 23 gennaio 1295. Fece questo solenne banchetto che terminò a notte fonda, solo che alla fine ci fu un crollo in uno scalone e morirono ben 40 preti. Cronaca vera, marzo 2020, ci ricorda un altro scandalo dei preti pedofili. E cosa penserà la famiglia della vittima? Torna sull'altare un sacerdote condannato per pedofilia. Ha scontato in carcere una condanna a 6 anni. Il prelato 54enne aveva già ripreso a dire messa nel circondario meno di 2 anni fa ed ora è tornato a officiare in una chiesa della stessa diocesi dove avvennero le molestie sessuali a una 12enne. Colpevole per lo Stato, assolto dalla Chiesa. Quindi Francesco Zanardi di Rete L'Abuso, retelabuso.org, se ne sta occupando molto attivamente e sta coinvolgendo degli avvocati per vedere di far rispettare il minimo che si può fare, cioè evitare che la persona venga di nuovo a contatto con i bambini. Ricordiamo una frase anticlericale di Gianni Brera, il famoso cronachista sportivo. I papi li ho sempre detestati tutti. Non sanno di religione, ad eccezione di Giovanni XXIII, che era della mia stessa razza contadina e somigliava molto a mio zio Camillo Ghisoni. Morto Papa Luciani, avrei preferito che il conclave eleggesse Bongo Bongo. Ricordiamo l'epidemia del coronavirus. L'Italia, nonostante sia presente il papato, un'infinità di santuari e ben 30.000 preti parassiti, e ha il record europeo di contagi e di morti. I preti si danno la zappa sui piedi da soli, infatti leggiamo dal giorno del, 12 marzo, il prete dice «Preghiera in solitudine, ci avvicina a Dio». Ma questo li frega da soli, allora non c'è più bisogno del prete, se uno può pregare da solo. Ricordiamo qualche frase anticlericale. L'idea di Dio ha distrutto la felicità degli uomini. Francisco Ferreri Guardia, 1859-1909. Io sono fermamente convinto che le religioni sono tanto dannose quanto false. Bertrand Russell, Nobel della letteratura, 1872-1970. Ricordiamo ora, dal calendario anticlericale, qualche data interessante. Lunedì 16 marzo 1782. Decreto regio che abolisce il Tribunale dell'Inquisizione nel Regno di Napoli. 17 marzo 2016, ex parroco bergamasco, a giudizio per pedofilia. Il misfatto avvenne nell'oratorio di Serina, appunto in provincia di Bergamo. La bimba aveva solo 6 anni. 18 marzo 2017, 2 suore e un sacerdote arrestati in India trafficavano i neonati adottabili. 19 marzo 1929, la Giunta Centrale di Azione Cattolica vota un ordine del giorno favorevole al regime fascista. 20 marzo 1562, recluso in un convento romano il predicatore sospetto eretico Gabriele Fiamma, confiscati i suoi libri. 21 marzo 2018, l'ex senatore clerico fascista Luigi Bobbio condannato a 16 mesi di carcere per corruzione. 22 marzo 2018, le mamme locali smascherano un prete pedofilo trasferito sotto falso nome da Napoli a Montubeccaria a Pavia. E da ora iniziamo la rubrica Un libro anticlericale alla settimana. Iniziamo dal libro di Giulio Giorello, professore di filosofia a Milano, Senza Dio, del buon uso dell'ateismo. come vivere, agire, lottare, morire, quando si può contare solo su se stessi, è la sfida cruciale per un nuovo illuminismo, inteso non solo come difesa di fronte al dispotismo, ma come compagno di strada, anche per coloro che ancora avvertono il bisogno d'amore a cui un tempo si dava il nome di Dio. Da ateo protestante, l'autore, Giulio Giorello, di questo libro non mira a dimostrare che Dio non c'è, ma a definire l'orizzonte di un'esistenza senza Dio. Una vita quindi che prescinde da qualsiasi forma di sottomissione al divino. Bene carissimi, abbiamo esaurito questa puntata, statemi bene, saluti anticlericali da Pierino Marazzani dal Circolo Giordano Bruno, saluti. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù, vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù, e la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei, vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. Viene più giù, vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare, che andiamo a inchiodare, che andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale, questa volta dedicato a frasi e detti anticlericali e alle disgrazie del clero a causa dell'epidemia del coronavirus. E iniziamo dal mio libro di piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale con le aberrazioni psicotiche dell'ascetismo, che sarebbero rifiuto del piacere e sessuofobia, che conducono talora i cristiani più fanatici a forme di psiconevrosi, ossessive autodistruttive tramite digiuni, mortificazioni, eccetera. Dal libro di Gianni Grana, L'invenzione di Dio. Abiezioni miserande sono quelle che praticano anche i credenti, poiché in fatto di dissolutezza essi non hanno nulla da invidiare agli atei. Da Gaetano Salvemini, Clericali e Laici, Parenti Editore, Firenze, 1957. Accecante determinismo fideistico è quello che dogmatizza una vergognosa pretesa di imporre all'amore le catene dell'indissolubilità. Da Carmelo Viola, Referendum contro il divorzio, edizione La Fiaccola, Ragusa, 1973. L'agnosticismo. L'agnosticismo è un atteggiamento di chi sostiene l'inconoscibilità di tutto ciò che non è verificabile sperimentalmente, termine usato per designare le posizioni secondo cui la ragione deve sospendere il proprio giudizio quando si trova davanti a problemi religiosi, per la cui soluzione sarebbe necessario oltrepassare i limiti naturali della conoscenza umana. Che ci siano voluti 359 anni per riabilitare Galileo è un fatto grave, ma più scandaloso è che la Commissione Pontificia abbia impiegato ben 13 anni per arrivarci. Margherita Hack, 1922-2013. Dio è soltanto una delle aberrazioni dell'io. Albert Camus, 1913-1960. Abbiamo poi questo detto di Luigi Bertoni, anarchico ticinese, 1872-1947. Il nostro anticlericalismo non si limita a combattere le eccessive pretese del clero, ma vuole eliminare pacificamente ogni religione. Dal mio calendario anticlericale, che si può richiedere alle edizioni La Fiaccola di Ragusa, info@sicilialibertaria.it. 22 marzo 2018. Le mamme locali smascherano un prete pedofilo trasferito sotto falso nome da Napoli a Montubeccaria, Pavia. 23 marzo 2018. Campane troppo rumorose. Dopo la multa indagato il parroco a Maiano Udine. 24 marzo 1470. Fanatiche autorità cattoliche arrestano tre ebrei con l'accusa di omicidio rituale a Indingen in Germania. Ricordiamo, gli omicidi rituali comportavano sempre la pena di morte per le persone calunniate. 26 marzo 1848, editto sulla stampa del Regno di Sardegna, vietati gli attacchi alla religione cattolica culto di Stato. 27 marzo 2015, Don Tony McSweeney, condannato a 3 anni di carcere per pedofilia in Inghilterra, aveva Indecent Images of Boy. 28 marzo 1825. Editto papale che ordina censura di tutte le pubblicazioni scientifiche. La Chiesa da sempre nemica della scienza. 29 marzo 2018. Dossier Pretigay, il vescovo di Tours in Matera, chiede scusa per l'ennesimo scandalo clericale. E passiamo all'unico misfatto della settimana, che è questo suicidio del 10 marzo 2020, questa suora novizia che si è avvelenata col topicida a Cuscatlán in Messico. Chissà cosa l'avranno combinato in convento, l'avrà visto di quelle robe turche. E passiamo alle disgrazie clericali. La strage dei sacerdoti, 3 morti in 72 ore, titola Il Giorno del 20 marzo. La Chiesa e la comunità piangono cappellani, vicari, preti, parroci, una strage. Morti 30 preti, 13 solo a Bergamo. Papa Francesco chiama il vescovo, eccetera, eccetera. Inutili preghiere, lo sterminio prosegue. Dall'Avvenire, sempre del 20 marzo, in un giorno il lutto per 8 sacerdoti. Decessi a Bergamo, Parma e Cermier, insomma sono morti in pochi giorni 8 preti e 6 missionari. La tragedia prosegue anche a Tortona, dove c'era questa casa di riposo di suore. Allora, sono finite quasi tutte in ospedale col coronavirus, nonostante tutte le loro preghiere, e 5 suore sono morte. Il coronavirus arriva perfino in Vaticano. Alto prelato contagiato nella casa del Papa. È un monsignore italiano. Alto prelato contagiato a Santa Marta. 5 contagiati in Vaticano. Beh, vedremo. E arrivederci alla prossima puntata. Saluti anticlericali a tutti da Pierino Marazzani, Circolo Giordano Bruno di Milano, www.giordanobrunomi.wordpress.com. Saluti. Tutti